amici. Non c'è spazio per la tenerezza, non a spalle. Non c'è posto per la debolezza. Solo i duri e i forti possono definirsi spartani. Solo i duri.